Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In apertura di questa ultima puntata di agosto, il viaggio che Emmanuel Macron ha compiuto nei giorni scorsi nei paesi dell'Europa dell'Est per cercare di bastire un accordo sulla modifica della direttiva comunitaria relativa al distacco internazionale e dei lavoratori. L'obiettivo è arginare il fenomeno del cosiddetto dumping sociale che sta investendo vari settori, a partire proprio dall'autotrasporto, un mercato dilaniato dalla concorrenza sleale praticata dai vettori dell'Est, di fronte alla quale finora i governi nazionali hanno reagito con norme ad hoc come il salario minimo o il divieto del riposo settimanale in cabina nell'attesa di un'iniziativa a livello europeo. Il clima non è favorevole, la missione del presidente francese si è scontrata infatti con il veto della Polonia, contrassegnato da un duro scontro a distanza con la premier di Varsavia Beata Zidlo, tiepidi anche Slovacchia e Repubblica Ceca. Qualche segnale di apertura è arrivato dalla Romania, anche se a Bucarest la posizione in qualche modo dialogante del governo è stata accompagnata dalla protesta inscenata in piazza dalle associazioni delle imprese di autotrasporto in concomitanza con la visita di Macron. Gli autotrasportatori romeni hanno rivendicato il principio della libera concorrenza. Insomma, la strada verso un accordo appare assai accidentata. Sulla reazione in Romania e più in generale sulla necessità di regole nuove per riequilibrare il settore, abbiamo sentito Pasquale Russo, segretario di FAI Conftrasporto e Unatras. Ma è comprensibile dal punto di vista dei lavoratori dello Stato della Romania, comprensibile che loro protestino. E tuttavia, però, anche questo è un indice, perché è evidente che la leva di un costo più basso per quei paesi rappresenta un fattore competitivo importante che dal loro punto di vista li fa crescere, ma che dal punto di vista degli altri stati rappresenta appunto una competizione non sostenibile. E quindi se è comprensibile da parte dei romeni la protesta per questo tipo di iniziativa, è altrettanto comprensibile che gli stati che stanno subendo un sistema così sperequato in qualche modo si difendano. Non possiamo immaginare, almeno per il settore dei lavoratori mobili, perché è evidente che nel settore dei lavoratori mobili questo tipo di competizione, questo tipo di fenomeno in cui un lavoratore costa la metà di un altro lavoratore produce degli scontri che non sono sostenibili. E quindi è evidente che se la costruzione europea deve tener conto di un territorio comune europeo unico, deve tener conto di questi squilibri che non possono più essere sostenuti, perché hanno provocato danni importanti e hanno provocato la chiusura di decine di migliaia di imprese in tutta Europa e la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro nel settore appunto dell'autotrasporto. Sulla Gazzetta Ufficiale il 16 agosto è stato pubblicato il decreto del Ministero dei Trasporti che contiene le modalità di erogazione dei contributi a favore dei trasporti combinati strada-rotaia, il cosiddetto ferro bonus. Il 31 agosto il provvedimento entrerà definitivamente in vigore. Per finanziare questo intervento il governo ha stanziato 20 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018. Per poter fruire del ferro bonus le imprese di trasporto devono garantire tre condizioni. Ora, senza entrare nel dettaglio tecnico, si tratta del rispetto di una serie di parametri relativi al volume di traffico intermodale. Non sono soggetti al contributo i viaggi in treno inferiori ai 150 km, fatta eccezione per i trasporti intermodali tra porti e interporti. A proposito di merci che viaggiano sui treni, c'è un aggiornamento importante sull'interruzione lungo il corridoio Reno-Alpi, il corridoio strategico tra i porti del nord Europa e quelli della Liguria. Come vi avevamo già detto lunedì scorso, la linea è interrotta in territorio tedesco all'altezza di Rastatt in seguito al cedimento della sede ferroviaria causato dai lavori di costruzione di un sottopasso. Il ripristino, inizialmente programmato per la fine della scorsa settimana, slitta ulteriormente. Ora si parla del 7 ottobre. L'interruzione della ferrovia inevitabilmente ha conseguenze significative anche sul nostro sistema logistico. In particolare ci sono forti timori per il flusso delle esportazioni verso la Germania. Inoltre, con la ripresa dell'attività produttiva dopo la pausa estiva, sin da questa settimana si preannunciano volumi di traffico elevatissimi sulle autostrade, unica alternativa diretta ai binari. A lanciare l'allarme è Anita, al nostro microfono il presidente Thomas Baumgartner. Mi sembra che questo problema in Italia ancora si sta sottovalutando, perché praticamente è interrotta l'asse principale che collega l'Italia con il nord-ovest della Germania c'è la zona Ruhr, che è una zona molto importante per gli scambi con l'Italia, ma anche il Benelux e logicamente i porti del Benelux come Anversa e Rotterdam. Su questa relazione ormai quasi il 70% delle merci va sul sistema ferroviario intermodale e l'interruzione di quest'asse, anche se si troveranno delle alternative, però non ha mai la capacità per soddisfare tutti questi trasporti. Si calcola che circa un 20.000 tir saranno necessari alla settimana per sobbarcarsi questo traffico in più sul sistema stradale, e abbiamo paura che questo il mercato oggi non lo offre. Dicevamo che occorrerà ancora quasi un mese e mezzo per ripristinare la circolazione dei treni lungo il tratto interrotto. Da parte della Germania infatti non è in previsione alcun tipo di intervento temporaneo per superare il blocco all'altezza di Rastatt. Noi non conosciamo esattamente tecnicamente quali possibilità ci sono. Abbiamo visto che la RFI tedesca, la DB Netz, sta facendo un lavoro per risistemare, però un lavoro fatto con tempistiche molto lunghe, fatto molto bene, sì, però mi sembra che i tedeschi non abbiano un'intenzione di trovare dei bypass o delle soluzioni intermedie più veloci per permettere questo infarto, questo collasso, a questo traffico all'interscambio, perché è un interscambio che interessa soprattutto l'Italia con le regioni nord europee, interessa di meno la Germania per il suo traffico interno. Il progetto Giovani Conducenti, avviato dall'Albo degli Autotrasportatori per formare una nuova generazione di autisti, entra nel vivo. Con un decreto del Ministero dei Trasporti è stata pubblicata la graduatoria dei primi 500 giovani ammessi al contributo per conseguire la CQC, in sostanza il certificato che abilita alla professione. In tutto sono state presentate 2.511 domande. Come già annunciato, è intenzione dell'Albo degli Autotrasportatori, in collaborazione con le associazioni di categoria delle scuole guida dei costruttori, soddisfare il maggior numero di domande. Per questo a giugno il Comitato Centrale dell'Albo ha deciso di quadruplicare lo stanziamento iniziale da 1 a 4 milioni di euro. Parliamo ora di revisioni sia per i camion che per le auto. In Italia il numero dei centri autorizzati è in aumento, ce lo dice una ricerca effettuata dall'osservatorio di Autopromotec sulla base di un'elaborazione dei dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare, tra il 2012 e il 2016 le officine autorizzate sono aumentate del 18%. Renzo Servadei, amministratore delegato di Autopromotec. Praticamente noi abbiamo un numero di centri di revisioni autorizzati che nel 2016 è arrivato a 8.421 centri. Ecco, per dare un riferimento, l'anno prima erano 7.776, quindi diciamo che è un servizio molto molto più diffuso sul territorio, quindi lo leggiamo positivamente. Ovviamente sull'altro piatto della bilancia, che ogni centro effettua un numero di revisioni inferiore, ecco, sostanzialmente questo evidentemente visto dall'ottica dei centri è un po' meno positivo, però quello che conta, visto che la revisione è un elemento determinante per la sicurezza, è il fatto proprio che sia agevole fare questo tipo di operazione. Quindi, come abbiamo sentito, ci sono più centri autorizzati, ma cala il numero dei veicoli da sottoporre a revisione. Come ci spiega ancora Renzo Servadei, anche questo è un effetto del mercato dell'automotive, depresso negli anni della crisi e ora rivitalizzato da una ripresa significativa dell'intero settore. Inizialmente c'era una grande variazione di anno in anno perché si doveva smaltire il pregresso, quindi c'erano, c'era un anno in cui c'erano molte più revisioni perché la parte di pregresso che incombeva su quell'anno era maggiore. Adesso sostanzialmente dipende molto dall'immatricolazione di veicoli nuovi. Se parliamo ad esempio di autovetture, noi sappiamo che per i primi 4 anni non si effettuano delle revisioni perché la prima appunto al quarto anno, per cui evidentemente in questo momento, se parliamo di vetture, stiamo revisionando le vetture degli anni della crisi, della profonda crisi, e quindi abbiamo meno veicoli in revisione. Comunque nel 2016 erano quasi 14 milioni le revisioni eseguite, per l'esattezza 13 milioni 949 mila, quindi dei numeri estremamente importanti. Hashtag Autotrasporti oggi finisce qui, grazie per l'attenzione, torna come sempre lunedì alle 13.45 da Andrea Ferro. Buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.